per quello che m'hai detto, per quello che m'hai fatto, di questo grande amore poco nulla ci rimarrà. È morto in te l'affetto, io non divento matto, e tutto il malumore molto presto mi passerà. L'ultima serenata non è per te, l'ultima serenata che male c'è. La voglio improvvisare alla biondina che sta lassù, la voglio far sentire a chi m'aspetta da non è più. Forse la mia canzone le piacerà, forse la sua passione m'accenderà. E se va tutto bene un altro amore nascerà nel cuore mio, nel cuore mio. La bionda è un'altra cosa, mi fa salire in casa, su via non t'arrabbiare se con quella ti tradirò. È tanto più graziosa e tu sei persuasa che non a lungo andare certamente la sposerò. L'ultima serenata non è per te, l'ultima serenata che male c'è. La voglio improvvisare alla biondina che sta lassù, la voglio far sentire a chi m'aspetta da un anno e più. Forse la mia canzone le piacerà, forse la sua passione m'accenderà. E se va tutto bene un altro amore nascerà nel cuore mio, nel cuore mio. L'ultima serenata non è per te, l'ultima serenata che me la c'è. Se questa serenata non la mi più, faccio l'improvvisata a chi sei tu. In sette settimane al